Sabato 31 dicembre, presidio al carcere di Rebibbia in solidarietà con le persone detenute. Dalle ore 10, banchetto di Radio Onda Rossa e concentramento. Ci vediamo all'angolo tra via Bartolo Longo e via Raffaele Maglietti per raggiungere la sezione femminile. Alle 13, lenticchiata propiziatoria e dalle 13.30 ci spostiamo alla sezione maschile. Da 5 anni una circolare del DAP impedisce di ricevere libri, riviste e stampe a chi è detenuto in 41 bis. Le privazioni del regime di tortura 41 bis cadono a pioggia su tutto il carcere. Porta un libro, compra una scarceranda e dici a chi vuoi inviarla in carcere. Rompiamo il blocco dei libri in 41 bis. Sabato 31 dicembre, tutti e tutte a Rebibbia dalle ore 10, odiando il carcere giorno dopo giorno. E allora bene, alle 15.39 minuti primi di questo venerdì 23 di dicembre si torna in voce dalle frequenze di Radio Onda Rossa e sarà silenzio assordante ad accompagnarvi per le prossime due ore. Ricordiamo, prima di entrare nel merito della puntata di oggi, che sul sito web di Radio Onda Rossa all'indirizzo ondarossa.info trovate al tasto sostieni i tanti modi per sostenere la vita di questa radio e quindi insomma vi indichiamo anche quelli che ci piacciono di più, quelli di quando ci passate a trovare qui negli studi a Via dei Volsci o di quando partecipate alle iniziative che organizziamo in giro per gli spazi occupati della città e non solo. Buongiorno a tutti, in vista proprio del presidio che si terrà sotto al carcere di Rebibbia il giorno del 31 dicembre, questa puntata è quella della settimana prossima di silenzio assordante, verranno dedicate alla situazione carceraria e ci occuperemo quindi di vari temi, cercheremo di fare sentire varie voci che provengono dal carcere e di approfondire un po' la situazione, quindi partiamo oggi e poi continueremo appunto venerdì prossimo. Oggi cercheremo di parlare un po' di quanto accade appunto nelle carceri in Italia, in particolare rispetto a un episodio accaduto proprio la settimana scorsa, la morte di una persona all'interno del carcere di Trento, accaduto sabato scorso, però parleremo anche poi del carcere di Opera e cercheremo poi anche di parlare del carcere speciale, in particolare delle sezioni AS, che sono una delle varie forme in cui si configura la carcerazione di tipo speciale in Italia. Questi sono alcuni argomenti per incominciare un po' appunto questa discussione, poi la settimana prossima torneremo con altri e quindi niente, ci ascoltiamo un po' di musica e poi cominceremo con il primo approfondimento. Gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you. The rock cried out, I can't hide you. The rock cried out, I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river, it was boiling. the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that bay. He said, torniamo in diretta su Radio Onda Rossa, silenzio assordante. Come avevamo preannunciato, oggi ci occuperemo di carceri in giro per l'Italia, e cominciamo dal nord più, un po' più estremo, Trento, dove proprio nel carcere del capoluogo trentino la settimana scorsa è morta una persona che era appena stata appunto reclusa, e abbiamo in collegamento alcune persone che si stanno occupando di questa situazione. Pronto? Ciao, buona giornata a tutti e a tutte. Ciao, ciao. Allora, intanto, se ti va di raccontarci un po' cosa è successo appunto sabato scorso nel carcere di Spini di Gardolo a Trento. Sì, allora, la storia è un po' complicata perché la stiamo mettendo insieme pezzo per pezzo man mano che scopriamo le notizie. Cosa è successo? È successo che un ragazzo, Luca, si è suicidato. Ma il perché si è suicidato bisogna collegarlo una settimana prima, cioè al suo arresto. Sui giornali locali era venuta fuori la notizia che un ragazzo era stato fermato dopo che aveva incendiato un distributore di benzina dell'Eni, no? E aveva messo dentro delle banconote più o meno 160 euro, ha dato fuoco a tutto il benzinaio, e poi lui è andato in ospedale perché si era bruciato. E gli stessi dottori dicono che quando era arrivato era particolarmente in stato confusionale, molto agitato, eccetera. E cosa è successo? Che se lo sono portato via i carabinieri dopo le cure. Da lì, una settimana dopo, si è scoperto che appunto si è suicidato. E anche qua, pian pianino, abbiamo messo insieme i pezzi. Uno è che purtroppo nessuno di noi, né tra i compagni né tra l'assemblea del Cabana, del giro delle amicizie, nessuno conosceva questo ragazzo, e niente, si è scoperto poi. Qualcuno ha un po' affrugato, diciamo, sui media, Facebook, così si è scoperto che questo ragazzo era dal 2006 seguito da medici, psichiatri e gente così per dei suoi problemi appunto psichici, secondo loro. E quindi quando l'avvocato d'ufficio, una avvocatessa praticamente giovane, è andata in carcere a trovarlo, in quel momento lui era calmo, però aveva capito un po' la situazione e aveva subito richiesto la scarcerazione il prima possibile, perché aveva capito che appunto questa persona non doveva, in particolar modo non doveva essere rinchiusa. E un'altra cosa che abbiamo scoperto appunto sempre tramite il suo Facebook è che lui era già da quest'estate che chiedeva aiuto, un aiuto un po' così generico a tutti, un aiuto, perché sennò avrebbe fatto qualcosa per far capire che aveva bisogno d'aiuto. Sta di fatto che gli unici che se lo sono preso, che sono state prima i carabinieri poi il carcere, sicuramente non gli hanno fatto bene, e così purtroppo si è conclusa la sua storia. Pronto? Sì, scusa. Bene, senti, ti volevo chiedere, partendo da questo episodio, quindi di una persona che non avrebbe dovuto stare in quel luogo e che invece appunto è stata, nonostante tutti gli avvertimenti, nonostante le richieste, è stata trattenuta in carcere, con il risultato poi appunto che si è portata poi ad uccidersi, a suicidarsi, e quindi insomma tutto quello che ne possiamo poi dedurre sulla brutalità di questi luoghi. E invece di parlarci un po' del carcere di Trento, del carcere, penso che sia un carcere di recente costruzione, di Spini di Gardolo, e rispetto alle problematiche che sono state riscontrate da parte di chi, di detenuti, insomma, rispetto alla situazione che si vive all'interno. Sì, allora, il carcere è stato aperto nel 2009-2010, quindi a cavallo di quei due anni, e purtroppo, visto che anche alcuni di noi sono finiti dentro, abbiamo un po' capito anche dal vivo un po' come funziona, un po' di prassi interne. Una è abbondante, ma come altre carceri utilizzo, di psicofarmaci, e il totale distacco, come dire, tra le persone, perché è un carcere appunto molto nuovo, moderno, in cui è tutto computerizzato, e non c'è più, come dire, la guardia che ti apre il cancello, ma è tutto tramite una guardiola all'incrocio tra i vari bracci, che tramite le telecamere coordina tutto, tra l'altro facendo un sacco di casini, perché aprono celle a caso, e la gente, visto che ce n'è veramente tanto sotto psicofarmaci, anche questo stress, no, di essere, come dire, chiamato in causa per una cosa o per l'altra senza motivo, alcuni di noi si ricordano che proprio questa cosa creava disagi, eccetera. E poi cos'è? Questa cosa si ripercuote sulla psichiatria, nel senso che c'è una pesante, come dire, un intorno di psichiatri che per non si sa bene quali motivi danno il via ad una serie di pratiche. Infatti è stata una psichiatra a dare l'ordine, il via libera all'incarcerazione di Luca, che non si è capito chi è questa psichiatra qua, però è stata lei che in tribunale ha detto no, Luca è perfettamente compatibile col carcere, proprio idoneo, cioè parole papali riprese da tutti i giornali, eccetera. Quindi questa cosa qua si ripercuote tra dentro e fuori, no? Poi c'è tutta la politica della provincia autonoma, che aveva firmato un patto con il governo, con il Ministero di Grazia e Giustizia, per avere un carcere, come dire, modello, quindi non sovraffollamento, tutta una serie di iniziative interne, lavoro, scuole, laboratori, così, e non è così per niente. Invece di essere 245 detenuti, siamo arrivati a più di 328, mi sembra esattamente. Quindi c'è un sovraffollamento, c'è un cibo che fa schifo particolarmente, insomma, cose che si vedono in tutte le carceri. E poi, rispetto a questa storia qua, quello che si è un po' scardinato, forse, mettiamola così, in positivo, è che se il dottor Ramponi, il responsabile sanitario del carcere di Trento, per tutti questi anni aveva coperto le guardie rispetto ai pestaggi, questa volta qui non se l'è sentita. Infatti subito il SAP, il sindacato della polizia penitenziaria, lo ha subito attaccato, come se l'avessero tradito, no? Lui prima li copriva, adesso no, cos'è successo? Forse la brutta pubblicità che gli si è fatta in città con decine e decine di scritte, non si sa. Però un altro particolare era che si intreccia le ultime settimane rispetto al carcere e sono i pestaggi, perché in maggio e luglio scorso era venuto il garante nazionale dei detenuti e era riuscito a prendere delle documentazioni dei referti medici dei due detenuti, in cui proprio si parlava apertamente di pestaggi, di ematomi, di fratture, eccetera, e si parla della famosa ormai cella 2076, che è questa cella liscia in cui le guardie prendono, portano detenuti con passamontagna o anche no, e li picchiano severamente. E questa cosa qua è uscita con forza in città, cioè anche sui giornali, c'è tutto scritto sui giornali, queste cose qua, ormai non è chiaro che dentro si pesta, eccetera. Bene, senti, una testimonianza insomma abbastanza chiara sul clima che si vive all'interno di questo carcere di Trento. Purtroppo non è neppure l'unico da cui arrivano testimonianze del genere. Sappiamo anche che all'interno di quel carcere non è neppure il primo caso di persona che si suicida, ci sono stati altri casi poi nel recente passato, ci sono state anche poi delle mobilitazioni. Quindi infine, se ti va di raccontarci cosa si sta facendo, se c'è una mobilitazione per far uscire un po' quello che sta succedendo all'interno del carcere. Sì, come hai detto tu, non è purtroppo la prima volta qualche anno fa abbiamo conosciuto la mamma di Doc, che appunto è un ragazzo che si è suicidato in carcere di Spini, al quarto dall'apertura del carcere. Poi c'è tutta una pubblicità del SAP sul fatto che i secondini sono praticamente frustrati da queste tentativi di suicidi, che però ne hanno salvati ben 11, servono più guardie, più soldi, insomma la solita cosa che emerge anche rispetto ai recenti fatti di Ivrea, quello chiedono soldi, guardie dappertutto. Quindi quello che stiamo facendo è questo, che martedì, subito appena ci siamo trovati, ci siamo trovati all'assemblea del Cabana, il vecchio circolo del Cabana di Stefano Sapporti, un operaio ammazzato dai carabinieri nel 2009 a Rovereto. Ci siamo trovati, abbiamo deciso una serie di iniziative, che va da mercoledì, abbiamo fatto un saluto bello caloroso sotto il carcere con una bella risposta, e mercoledì mattina abbiamo fatto un volantinaggio ai colloqui con più di una mamma di qualche detenuto giovane che era particolarmente colpita da questa faccenda, che insomma, vedremo se verrà in questi giorni alle iniziative. E ieri pomeriggio ci siamo trovati una ventina abbondante in centro a Trento, abbiamo bloccato varie vie del centro, che poi per via dei mercatini di Natale, con questa atmosfera caramellosa, traffico, così siamo riusciti ad attirare bene l'attenzione, e per una volta, però ci deve essere sempre il morto, insomma la gente era un po' meno ostica ai blocchi della strada, striscioni, megafonate, volantini, insomma era un po' difficile essere contro a una persona morta, anche perché è evidente a tutti, anche sui giornali locali sta uscendo che è stata proprio una grande angheria questa fatta a Luca, cioè lui non doveva proprio starci dentro, cioè nessuno dovrebbe starci, lui meno che altri. E poi oggi, fra due ore, faremo un presidio sotto il carcere, cercando di portare anche l'esperienza di lotta di Ivrea, di quello che è successo lì, degli Stati Uniti, eccetera, ma soprattutto stare vicino ai detenuti in questo momento qua, dopo la morte di Luca, e così poi vedremo più in là come continuare in questi giorni. Bene, ti ringrazio e un in bocca al lupo allora per le iniziative che sono in programma, e un saluto a te e a tutti, ciao. Ok, grazie a voi. Ciao, niente, questa ciao. Era la prima parte del programma, appunto, che dedicavamo oggi di Silenzio Assordante alla questione carceraria. Ci siamo occupati di un fatto, appunto, di cronaca recente, la morte di questo ragazzo nel carcere di Trento. Si è accennato poi adesso con il compagno in diretta del carcere di Ivrea, dove appunto ci sono stati poi c'è stata una mobilitazione in seguito ai pestaggi continui denunciati proprio dai reclusi. Di questo purtroppo oggi non riusciamo a parlare, ma ne parleremo la settimana prossima, mentre ci occuperemo di un altro carcere sotto i riflettori, che è quello di Opera a Milano. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo in diretto e parleremo con qualcuno che ci chiama a proposito del carcere di Opera. Torniamo in diretta su Silenzio Assordante. Dopo Trento ci dirigiamo a Milano, al carcere di Opera. Sì, abbiamo parlato di purtroppo un detenuto morto in seguito a un arresto che non ci doveva essere, nel senso che le condizioni non avrebbero permesso neppure, secondo i criteri, diciamo, dell'amministrazione carceraria, di trattenere in carcere quella persona. Adesso parliamo di pestaggi nel carcere di Opera, e parliamo anche di un regime di isolamento, regime 14 bis, che è il regime a cui vengono, di fatto, di isolamento a cui vengono sottoposte, appunto, le persone che entrano in conflitto con il sistema carcerario, con l'amministrazione. In particolare parliamo di un prigioniero, Maurizio Alfieri, che poi da anni stiamo seguendo, che è sempre in prima linea rispetto alle lotte carcerarie, che da sempre si scontra con le amministrazioni dei vari carceri di cui è stato spostato, diciamo, per tutta la penisola, per fargli passare male la sua detenzione. Nonostante questo, si è sempre ribellato a questo sistema. Nello stato attuale è stato condannato addirittura a 6 mesi di isolamento nel regime 14 bis, quindi una situazione molto molto pesante. E come prima cosa leggeremo una lettera molto chiara sulla situazione che lui ha scritto. Un attimo di musica e poi leggiamo questa lettera. I start to stare at the younger, my heart goes to them. They tested with stress that they under. We never really went through that, cause we was born BC, you and me before crack. And nowadays things change, everyone's ashamed of the youth, cause the truth look strange. And for me it's reversed, we left them on water's curse, and it hurts. Cause any day don't push the button, and all good men like Malcolm X and Bobby Hutton die for nothing. Don't it make it get teary, the world looks dreary. When you wipe your eyes, see it clearly. E allora, bene, come preannunciamo, vediamo lettura di una lettera, appunto, uscita dal carcere di Opera, una lettera del prigioniero Maurizio Alfieri, una lettera datata il 4 novembre scorso. Carissimi compagni e carissime compagne, sorelle, fratelli, solidali, amiche e amici. 2 giorni fa, di sera, 2 novembre, ho sentito le vostre urla e i compagni dalla sezione. Mi chiamavate e avete scaldato il mio cuore. Vi racconto cosa avevano preparato queste merde, perché era un agguato preparato nei minimi particolari. Il 17 ottobre mi chiamano e mi dicono che ci sono 10 giorni da scontare, vecchi. In un primo momento ho risposto di preparare la squadretta, che ero pronto a vendere cara la mia pelle. Poi ho visto che in sezione i miei compagni erano più incazzati di me. Così, per non far degenerare la situazione, ho tranquillizzato tutti dicendo che 10 giorni non sono nulla, per cui sono sceso di mia spontanea volontà, anche per dimostrare che io non fomento rivolte o faccio del proselitismo, come avevano scritto nel 14 bis che ho finito il 30 giugno e dove il direttore mi aveva promesso la sala hobby per scrivere un libro, il computer, di mettermi nella commissione detenuti. Tutte promesse false di un ipocrita. Ho anche saputo che è lui a organizzare che lui è l'organizzatore di questa infamia carogna. Comunque, il 18 ottobre mi comunicano un foglio con 6, 7, 8 rapporti. Incazzato lo accartoccio e lo tiro addosso allo scagnozzo del direttore, non presenzio al consiglio disciplinare. Di quei rapporti l'unico vero era l'accaduto al colloquio con il brigadiere. Poi mi dicono che i giorni di isolamento sono 15. Va bene, accetto tutto. Arriva il 1 novembre e alle 12 mi dicono di preparare le cose che devo salire. Passa il tempo, si fanno le 13, chiamo e non c'è nessuno. Allora dico che voglio andare al passeggio e mi aprono. Invece mi dirigo nell'ufficio del capo posto e trovo un brigadiere, cui chiedo spiegazione. dice che non sa nulla. Così, dopo aver visto il menefreghismo, decido di spaccargli tutto l'ufficio. Prendo il computer e gli dico: se non chiami la sorveglianza per darmi spiegazioni, ti spacco tutto l'ufficio. Dice che ho ragione e chiama la sorveglianza. Intanto ho posato il computer ed esco in sezione. Ma, mentre arriva la sorveglianza, succede che un mio compagno sta litigando forte con un agente. Mi metto a calmare gli animi e va tutto bene, solo che arriva un ispettore e inizia a far innervosire ancora questo ragazzo. A quel punto calmo il ragazzo e ricordo all'ispettore che in realtà è venuto qua per me, quindi può anche lasciar stare quel ragazzo e dare a me delle spiegazioni del perché sono ancora qui. Nel frattempo gli altri sgherri avevano aperto le porte delle due celle dove eravamo io e l'ispettore, così da coprire le telecamere. A quel punto il bastardo mi prende con forza il braccio sinistro e mi dice: cammina, pezzo di merda. E un altro mi blocca dietro al braccio destro, così quel figlio di puttana mi sferra un pugno in faccia. Con forza mi sono divincolato e gli ho tirato un destro, ma altri 10 mi sono saltati addosso a colpirmi e tenermi. Così non sono riuscita a pestarlo. I miei compagni urlavano mentre loro chiudevano tutti i blindati. Come vedete, ci sono le testimonianze di chi ha visto tutto. Ho chiesto il sequestro del video delle telecamere e alcuni vogliono testimoniare, ma hanno fatto dei rapporti anche a loro. C'est le silence des agneaux. Et rappelle-toi, au lieu de vanter et jouer le beau, dis-toi que les vrais nombres sont ceux qui n'en parlent pas. Se croit fort quand on est faible, se croit digne quand on l'est pas. E allora la lettera continua: mi buttano nella cella liscia mentre il bastardo urlava: sei un pezzo di merda tu e tutti e tutte gli anarchici. Ed io gli ho sputato e urlato: cella liscia, butto fuori il materasso e il cuscino, sporchi di escrementi, chiedo i miei. Dopo 10 ore me li danno, ma senza copertura. Altro casino e mi portano nella della carta da infermeria per coprire il materasso. Chiedo la coperta, altro casino fino alle 23. Minaccio che ho freddo e se non me lo danno picchiavo chiunque apriva la cella. Così verso le 24 arriva la coperta, dopo che gli altri facevano casino. Quando sono arrivata a Opera nel 2015 avevo avuto un diverbio con questo ispettore di merda. Mi aveva detto che mi gonfiava la faccia ed ero andato dentro la sorveglianza a prenderlo per vedere se era capace. È l'autista del direttore e della direttrice. Non mi aspettavo che mi colpisse a tradimento. Conclusione: passo la notte in isolamento. Ho fatto verbalizzare le ecchimosi e i lividi. Ho preso anche un colpo alla testa e mi hanno fatto le radiografie, ma il dolore è dentro lo stomaco, pieno di rabbia e rancore, per non aver potuto reagire a quel bastardo ispettore, che poi ha pure mentito. Ha scritto che lo avrei minacciato dicendogli: ti ammazzo la famiglia, so dove abiti, ti ammazzi i bambini non si toccano, non è nel mio DNA. È dal 6 settembre che non mi permettono di telefonare a mio nipote nel carcere di Vigevano. Ho spedito una lettera al DAP direttamente a Santi Consolo. Qui girava voce che lui fosse mio amico perché mi avevano concesso un 14 bis soft, ovvero la possibilità di scaldarmi una bevanda al mattino. Vediamo cosa dicono. Intanto invito tutti e tutte le compagne e i compagni a mobilitarsi sotto il DAP a Roma e Milano, a scrivere in ogni parte e a protestare contro questo trattamento disumano. Bloccate il tribunale, scrivete su tutti i muri, palazzi, ponti, ovunque, di cosa fanno direttore e direttrice e comandante. Dite che sono dei vigliacchi, promotori e carnefici di questo trattamento disumano e infame come loro. Io non mi piegherò ai loro abusi. Mi spezzo ma non mi piego, non abbasserò mai la testa. Qualcuno è riuscito a tranquillizzare i compagni in sezione dicendo che settimana prossima li fanno salire. Pensate che mi hanno comminato 160 giorni da scontare, di cui 90 erano nascosti perché il direttore non avrebbe fatto apposta l'apposita richiesta a suo tempo. Ecco di nuovo un altro abuso. Comunque ho risposto che questo ennesimo 14 bis possono metterselo nel direttore e direttrice e tutti quelli che hanno messo in atto questa trappola. Se il DAP dà ragione a loro, allora c'è in atto un disegno criminoso. Ho aiutato quei ragazzi disabili insieme a tutta la sezione. Il direttore si disinteressa e poi manda a rompere i coglioni. Vorrebbe altri suicidi perché è un sadico. Poi quando vengono pubblicati i pestaggi e gli abusi parla di proselitismo. Qui in cella stiamo peggio degli animali e poi parlano di diritti e legalità. Che vadano a fanculo. Traumatizzano i bambini spogliandoli e il direttore parla di bambini senza sbarre. È inutile, è solo un sadico ipocrita. Certo, ora parlo per rabbia, per tutto quello che ha promesso e non mantenuto, ma stavolta la sua vigliaccaggine ha superato ogni limite. Io non chiedevo niente, volevo solo che mi lasciassero in pace. Intanto lui tramava alle mie spalle. Se torno in sezione, metterò una pietra su tutto. Dipenderà da cosa mi dice il comandante lunedì 7 novembre. Poi, se non mi fanno salire, è sicuro che non permetterò che mi lascino qui a vivere così. Cos'altro dirvi? Che sono anni e anni che mi dicono: se tieni contatti con gli anarchici passerai sempre guai, e io rispondo che non sono degni di nominare le mie sorelle, i miei fratelli e tutti e tutte le solidali e i solidali. Proprio oggi il comandante è andato a dire ai miei compagni che la settimana prossima salirò in sezione. Non ci credo, perché a me hanno detto che aspettano il mio trasferimento e il 14 bis. Stamattina mi sono rifiutato di cambiare cella e ieri nella cella liscia ho chiuso la telecamera con il giornale, cosa che mi ha procurato un altro consiglio disciplinare perché avrei rotto la telecamera. Sono menzogne. Termino, compagni e compagne, sorelle, fratelli e solidali, anche se non ricevo posta, so che non mi lascerete mai solo e proprio per questo il mio cuore è sempre caldo. Vi abbraccio con ogni bene, una per una e uno per uno. La giusta via è solo l'anarchia, a testa alta, ribelle e solidale. Fraternamente, Maurizio. Vi voglio tanto tanto tanto tanto bene. E appunto questa è la lettera che a firma di Maurizio Alfieri dal carcere di Opera Milano in data 4 novembre. Noi ci prendiamo una pausa musicale e successivamente andiamo a contattare proprio un compagno che ci racconterà un po' la situazione all'interno del carcere. El sistema habló, extendí derecho a réplica. Canto y respuesta, denuncia y propuesta. No basta la letra, vamos a la protesta. Alerta con la métrica que me tinca. Que está más calibrada que la crítica estética. La crítica sistémica, sin dialéctica, sin identidad. Hoy recorriendo hoy, América hoy. Desde una visión periférica, no turística. Somos más que estadística. Desde Panamá hasta Bogotá, Lima y Caracas, La Paz y La Plata, Managua y Sao Paulo, Guadalajara y Santiago. He festejado con los dejados de lado, cansado de ser últimos en la lista. Hoy nos decidimos a ser los protagonistas. Pobla, gueto, favela, barrio, unido por los sueños, lo demás es secundario. Ojo, no hablo en singular, creo en lo plural, los colectivos donde todos decidimos. Movimientos populares, la principal tarea, construir capacidades para buenas peleas, que nadie nos vea como seres inferiores y que crezca paso firme la experiencia de los pobres. Hoy es más experimento que receta, pero los conocimientos vienen de luchas concretas. Piensa donde pisa, así que sintoniza tu ambiente, concientiza a tu gente y organiza. Esa es la voz que viene de abajo. Se escuche bien fuerte, salí de vuelo, vuelo de justicia. Escapo fugazmente como el frente rodriguista, cavando un túnel en la historia de mi pueblo. Mi fuente, la memoria subterránea con lo nuevo. Como un mural de la Paula hasta el mar, trazo a trazo, dibujando libertad. Libertad, libertad, en la acción y la canción. Poder crecer con amor y rebelión. Esto es unir y venir, como dicen por ahí. Así, pa' ti, pa' mí, en ti, en sí. Moraleja, las puertas son las que dejan. Si pienso seguir, aunque me tenga tras la reja, deja que los perros ladren. Son solo ruidos pa' callarte y golpes pa' cansarte. Mirada en alto, posición de combate. Hago rimas con vecinos. Para fina pa' quemarte, entre arte no se vende en galería. Es de la calle, de la periferia. Este arte no se vende en galería. Es de la calle, de la periferia. مهمومة فضل وشر يخونة شو بتحب مضيف من دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شيء إلنا بدنياه. Torniamo in diretta su Radio Onda Rossa. Precedentemente abbiamo letto delle lettere che arrivavano dal carcere di Opera a Milano, da cui insomma si deduceva una situazione grave per quanto riguarda appunto pestaggi, isolamento nei confronti dei diversi detenuti. Abbiamo quindi in collegamento un compagno che ci chiama da Milano per aggiornarci un po' sulla situazione del carcere cittadino. Pronto? Sì, ci senti? Ciao, buona giornata. Ciao a tutti e tutte. E niente, a te volevamo chiedere se ci potevi un po' raccontare rispetto alla situazione di Opera. Sì, allora noi abbiamo sempre avuto in questi ultimi anni un'attenzione particolare sul carcere di Opera. Visto che ci sono casi di reclusione, ci sono definitivi, c'è un ricambio molto minore rispetto a San Vittore, quindi in questi anni qua abbiamo comunque maturato dei contatti che sono rimasti nel tempo con alcuni familiari, con alcuni detenuti, e in questo contesto si è inserita nel febbraio di quest'anno una lettera collettiva che è uscita dal carcere di Opera, titolata della Cayenna di Opera, che raccoglieva un 128 firme dei detenuti delle sezioni A, B e C del primo padiglione del carcere di Opera, che rivendicavano sostanzialmente 5 punti. Uno, pretendevano che ci fosse una commissione di detenuti per il controllo del vitto, che ci fosse una questione della salute, ci fosse per le prescrizioni mediche maggiore celerità, e anche per le vittime specialistiche legato anche a persone che hanno gravi patologie, perché lì c'è anche il centro clinico. C'era la questione di usufruire dell'aria aperta per i colloqui estivi, come viene data a quelli del secondo padiglione, che è quello diciamo definito trattamento avanzato, quello premiale, rispetto al primo che invece è quello non premiale, quindi punitivo eccetera, che venisse abolito l'articolo 41 bis, perché all'interno di questo articolo viene prescritta l'impiego della forza fisica e dei mezzi di coercizione, e che questo quindi dava il via libera poi a tanti episodi diciamo di minore intensità rispetto al 41, e che però insomma il 41 legittima e a seconda. E infine tra queste rivendicazioni c'era quello di poter usufruire per il spesini portavitto dell'ascensore, visto che si portano tuttora il carrello del cibo fino al quarto piano per le scale. E quindi insomma esce questo comunicato, noi lo raccogliamo e cerchiamo, lo diffondiamo, facciamo di solito i volantinaggi e tutto. Nel marzo facciamo un'iniziativa nella magistratura di sorveglianza all'interno del Tribunale di Milano al settimo piano, entriamo dentro, apriamo uno striscione, diamo lettura collettiva pubblica di questo comunicato, abbiamo abbastanza un'iniziativa di sorpresa, quindi anche i carabinieri quando arrivano non riescono a intervenire, c'erano anche lì. E niente, ecco, è saltata la linea come avete capito, quindi cerchiamo di riattivarla al più presto, magari ci ascoltiamo mezzo pezzo musicale, poi se riusciamo torniamo in diretta con quel compagno di Milano. Fallujah on this track, yeah? Fallujah! Big up to all the armed people around the world. Armed people. All the occupied times. Occupied times. Get me? Yo. Ramallah, underground. What the fuck's going on in a now they a terrorize me. I can't see but can hear my children in the background behind me screaming blindly, tying me hands together. Very clever, big clap for big men. America pick them, I'm scared when in a jeep surrounded by soldier men with a gun barrel cocked to the head, colder than winter's frozen with fears. I need icicle tears and every punch to the ribs green with cheers. Boom, boom, boom, getting stuck in with me peers. Later will be greater with a couple of beers. Shit smears, interrogating pulled up body pictures. Smile for the camera, say cheese. Whilst caked in your own feces, Liddy gets the leashes. Raggedy ragged terrorist tea leaves. Embrace freedom, thank you, please get on your knees. E torniamo con i potenti mezzi a nostra disposizione a collegarci con Milano dopo che è saltata precedentemente la linea. Pronto, ci senti? Sì, sì, un evidente sabotaggio. Esatto, senti, purtroppo ma... non ci vogliono fare parlare. Dove siete arrivati? Perché io mi sono perso qualche linea. Stavamo parlando del magistrato di sorveglianza. Ah, ok, allora ok. Ci abbiamo fatto questa iniziativa dell'organizzazione di sorveglianza, ecco. Dopodiché, sempre nel marzo, è stato combinato a Maurizio, un compagno insomma che è dentro, e molti come Maurizio Alfieri, che è conosciuto insomma un po' sia dal ne abbiamo parlato poc'anzi, sì. Gli avete letto la lettera, insomma è stato messo in isolamento lui ed altri perché virgolettato, diciamo, ci hanno inviato la dicitura della Camera di Consiglio perché fomenta le rivolte in collegamento all'esterno con gruppi anarchici. Questo, diciamo, era lui ed altri. Quindi finisce in isolamento e si arriva ad aprile. Ad aprile c'erano previste la giornata in concomitanza all'interno della campagna Pagine contro la tortura dei presidi sotto le carceri, quindi andiamo sotto al carcere di Opera, ne viene fuori un bel presidio, stiamo sotto i due padiglioni con denunciando il discorso dell'isolamento, sostenendo le parole d'ordine dentro i detenuti che si erano mobilitati. Intanto viaggiano i collegamenti anche tramite le radio, come eravamo costruiti con gli altri compagni che si mobilitavano, quindi sentono del presidio dentro al carcere di Terni, l'acustica è anche buona, e quindi diciamo le lettere successive apprezzano questa iniziativa, parlano anche, esprimono solidarietà rispetto a quelli detenuti a Bancali, insomma si innesca questo tipo di cosa. Nel frattempo dentro abbiamo la percezione chiara, attraverso le lettere, che c'è comunque un gruppo, c'è una maggiore coesione all'interno, perché cominciano a uscire un po' di lettere anche collettive in cui vengono denunciate, diciamo, sollevate una serie di questioni, dall'aggressione a un ragazzo filippino finita sui giornali come fosse un'aggressione sua, invece aveva subito un pestaggio ed era finito in isolamento e quant'altro. A seguito di queste cose, altre lettere ci informano che è stato rimosso un ispettore particolarmente inviso ai detenuti, viene spostato, vengono rimbiancate le celle, vengono messi dentro del personale addetto a loro più rispettoso, eccetera, e tutti dicono che qualcosa è cambiato e si sta un pochino meglio. Quindi tutti riconoscono che è merito di questo, del livello di mobilitazione tra il dentro e il fuori, che insomma è un risultato conseguito grazie a questo. E in estate poi in realtà comincia un blocco più sistematico del solito della posta, cosa che avviene sempre, però ci scrivono che viene rinvenuta dai lavoranti interni pacchi di posta buttata, tra cui gli opuscoli ma non solo. E in ottobre vengono dati ulteriori 10 giorni di isolamento a Maurizio Alfieri per degli episodi del 2015. Lui all'epoca aveva da scontare, mi sembra, un 150 giorni pressi di isolamento, e gliene fanno scontare 10. Sempre in ottobre tre ragazzi ventenni vengono sbattuti in isolamento per una presunta detenzione di sostanze stupefacenti, cosa che in realtà a seguito degli esami del sangue e delle urine non viene rinvenuta nessuna traccia, però di questa cosa si fanno carico una serie di detenuti all'interno, ci segnalano questo, quindi noi in programma ci abbiamo di andare a fare uno dei saluti serali che ultimamente sono diventati comunque una pratica molto agile e che ci consente anche di poter comunicare direttamente attraverso il megafono con i detenuti all'interno. Quindi andiamo dentro, diciamo che siamo al corrente di queste cose, esprimiamo solidarietà a quelli che sono in 14 bis. Nel frattempo ci arrivano lettere che a questi ragazzi, come ulteriore elemento vessatorio, vengono, si innesca la pratica delle perquisizioni ai familiari, che li fanno spogliare, fino anche i bambini piccoli che vengono spogliati, posati su un tavolo lercio, tant'è che abbiamo, insomma, riceviamo delle lettere che poi sono pubblicate nell'opuscolo e anche messe nei volantini, in cui i familiari umiliati dicono: ma io a colloquio non ci vengo più, e guardie che dicono: allora, se non vuole avere questo trattamento, smetta di venire a colloquio, non porti suo figlio, cose di questo tipo. Quindi noi il 2 novembre abbiamo in programma un saluto, sempre sotto al carcere, per denunciare queste cose. Nel frattempo, il 1 novembre, il giorno prima, avviene un'aggressione a Maurizio all'interno dell'insezione, immediatamente dopo il suo ritorno in sezione, dopo l'isolamento, con un pretesto che poi viene descritto in alcune lettere, eccetera. Quindi nel saluto del 2 teniamo presente di questo, andiamo dentro e vediamo che comunque all'interno del carcere, come ci viene poi scritto anche successivamente in alcune lettere, anche alcuni reparti che tradizionalmente in saluti precedenti erano rimasti abbastanza silenti, invece si fanno sentire, anche il terzo piano si fa sentire molto, no? E quindi da dentro anche ci dicono che qualcosa sta cambiando, molti detenuti chiedono informazioni di chi si mobilita da fuori, partecipano ai presidi, insomma si innesca qualcosa di buono, tant'è che il 3 novembre, il giorno immediatamente dopo il saluto, ci informano che viene realizzata una perquisizione molto pesante, con anche distruzione di alcuni oggetti, insomma di quelle che ti rivoltano completamente tutto, al terzo e al quarto piano del primo padiglione, che sono quelli, diciamo, i piani dove c'è maggiore attività, maggiore ricettività e anche mobilitazione. E successivamente, il metà novembre, il 12, Maurizio viene rimesso in isolamento per fare altri 15 giorni. Nel frattempo ne ha accumulati 175 da scontare pregressi, e viene posto in isolamento anche un altro ragazzo che era con Maurizio al momento del pestaggio, anche a scopo intimidatorio senz'altro, e ci scrive anche lui, gli riscriviamo anche noi, cerchiamo di tenere i contatti, e successivamente viene poi trasferito a Monza, dove tra l'altro la direttrice del carcere di Monza è la moglie del direttore del carcere di Opera, di Siciliano, quindi diciamo si fanno le cose abbastanza in famiglia. E a questo scopo noi comunque il 1 dicembre prepariamo un'iniziativa all'ospedale San Paolo, che a Milano, diciamo, è l'ospedale principale per i detenuti, nel senso che benché ogni ospedale, non so, il Trisacco, l'Opera, eccetera, dovrebbero ricevere i detenuti da le carceri più vicine, San Vittore, Bollate e Opera, in realtà il San Paolo è quello, diciamo, principale, dove c'è un reparto di medicina quinta, dove ci sono dentro, insomma, quasi tutti i parecchi detenuti, e poi ci sono soprattutto le due nuove sezioni, mi sembra che hanno realizzato nel 2006-2007, due reparti con due celle a 41 bis. E allora facciamo questa iniziativa informativa, dal tetto dell'ospedale viene srotolato uno striscione di 12 metri con scritto 41 bis, 14 bis uguale tortura, viene fatto uno spiccheraggio, eccetera, e quindi, diciamo, parliamo anche delle condizioni sanitarie fuori, e quindi se le condizioni sanitarie fuori fanno schifo, figuriamoci quelle dentro. E quindi cerchiamo di costruire questo ragionamento che vada anche un po' oltre al carcere, che però tenga conto anche di quello. Il 17 di dicembre ci viene detto, insomma, Maurizio ci scrive che gli è andato ulteriori 6 mesi di 14 bis, eccetera. Quindi noi abbiamo adesso in programma un presidio il 14 gennaio sotto al carcere di Opera, di giorno, partiremo dalle 2, per dare comunque risposta e continuità alla lotta. Questo era per fare, diciamo, una carrellata molto veloce degli ultimi avvenimenti, perché poi seguendo gli opuscoli si riescono a estrapolare questa breve cronistoria, ma ci sono poi un sacco di elementi, leggendo le lettere, che emergono e che danno anche un po' il termometro dell'umore che si respira dentro, dell'attività, ecco, delle relazioni, ecco, che qui è difficile chiaramente, dal dentro e fuori le comunicazioni sono molto difficili, però questa corrispondenza per noi è preziosissima, per questo che viene anche molto spesso e volentieri ostacolata, perché ci ritorna un rapporto comunque diretto e ci dà quelle informazioni, quell'umore dell'interno che sono quelli preziosissimi, ecco. Senti, scusami, tu hai menzionato un paio di occasioni un opuscolo, noi però in realtà presentandoti poi non l'abbiamo bene forse spiegato. E quindi, visto che poi ci ascoltano anche o ci possono ascoltare dalle carceri cittadine romane di Regina Coeli e Rebibbia, se ti va poi di spiegare cos'è questo opuscolo e eventualmente anche di dare gli estremi per chi lo volesse ricevere. Sì, allora, noi da quando è nato questo collettivo che abbiamo noi, che si chiama Olga, che è nato nel 2005, da subito abbiamo, diciamo, utilizzato questo opuscolo, che sarebbe una raccolta di lettere che ci arrivano un po' da tutte le carceri, insieme a quello che accade, non chiaramente tutto, però quello che un po' che seguiamo noi anche di lotte esterne, piuttosto che quello che seguono altri compagni, insomma quello che riteniamo importante sia a livello locale, nazionale, sia a livello internazionale, c'è questo opuscolo che mese per mese dà uno spaccato di quello che accade dentro e fuori le carceri. Con questo strumento noi cerchiamo di far sapere fuori quello che avviene dentro e far sapere dentro quello che avviene fuori, anche per cercare di costruire una dimensione di lotta un pochino più generale, dove fuori facciamo nostra e propria la dimensione della lotta all'interno delle carceri e come parte di lotte più generali, e viceversa, che dentro ci si abbia la percezione di contribuire e partecipare anche alle lotte che avvengono fuori. In questi anni tantissimi sono stati gli attestati di solidarietà, per esempio agli arrestati, ai compagni arrestati all'interno del movimento Notav, piuttosto che di altre lotte, perché dentro era conosciuta questa vicenda, era sentita. E c'è anche un bel aneddoto brevissimo che racconto, che durante una rivolta nel carcere di Cremona, dove vennero distrutte le videocamere e tutto, il grido che veniva detto dentro era Notav, magari neanche tanto per la coscienza da parte di tutti dell'importanza di quella lotta, se non altro perché quella bandiera era stata identificata come bandiera comunque di resistenza, di opposizione, e quindi era stato comunque recepito uno schieramento, no? Erano schierati da quella parte. Questo, insomma, è interessante come tipo di aspetto. Quindi questo opuscolo noi mese per mese ne spediamo un po' in tutte le carceri, per esempio nel numero di questo che uscirà a gennaio ci sarà contenute anche quanto abbiamo appreso dai siti eccetera del divieto di ricevere i libri a Rebibbia, come pure leggevo oggi che pare che vogliono anche sospendere le sezioni aperte all'interno del carcere, quindi insomma ci saranno anche preso, penso anche proprio da una trasmissione che ha fatto Radio Onda Rossa, la sbobinatura di un intervento fatto per la radio. Trascriveremo le parti più significative e le collocheremo anche all'interno dell'opuscolo insieme alle lettere che magari ci arriva andare Bibbia eccetera. Questo serve anche a noi per mantenere diciamo un'attenzione e la continuità di quello che avviene all'interno delle carceri, proprio perché tra alti e bassi è importante sapere cosa è successo lì, se uno viene trasferito da una parte chi sono e altri detenuti con cui abbiamo rapporti che sono all'interno lì, insomma cercare di fare il possibile per mantenere quella difficoltà estrema che c'è, diciamo, attorno chiaramente al carcere, all'isolamento eccetera, di preservare dei collegamenti, un interesse e delle relazioni anche diciamo in sede, e soprattutto per dare anche fuori questa percezione di eventi che non rimangono isolati ma che invece si evolvono e cambiano e hanno una loro continuità, quindi apprende, ce la sentiamo molto più nostra, ecco, fa parte. Quando poi si conosce bene una cosa, ti appartiene di più, ne sei più trascinato dentro, insomma è un qualcosa che non riguarda l'evento di un momento o una manifestazione sola, ma proprio un percorso, ecco. Questo è fondamentalmente l'opuscolo. Bene, senti, scusami, ma chi volesse ricevere questo opuscolo dall'interno delle carceri? No, allora, l'opuscolo è la casella postale di questo opuscolo, perché dentro chiaramente noi, chi lo vuole ricevere può scrivere, chi è fuori può mandare una mail a olga2005@autistici.org e glielo spieghiamo volentierissimo. Chi lo volesse ricevere su carta, lo vuole inviare dentro, c'è una casella postale che si chiama, è intestata all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 20122 Milano. Bene. Poi ti chiedo scusa, scusami se ti stresso, ma ti chiedo di ripeterla così chi eventualmente fosse all'ascolto. Grazie. Associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 20122 Milano. Grazie. E niente, se ti va poi di concludere il tuo intervento. Sì, magari passo il collegamento a una compagna qui vicino a me, sempre del collettivo Olga, che magari tira lei queste conclusioni. Bene, okay? Grazie. Un saluto a tutti. Ciao, grazie, un saluto a te. Ciao. Sì, ciao a tutte e tutti, sarò breve, cerco di raccogliere gli elementi più generali appunto che riguardano nello specifico il carcere di Opera, che a nostro avviso può essere definito un po' come un carcere totale perché al suo interno, come in altre strutture penitenziarie italiane, sono contenuti tutti i regimi, più o meno tutti i regimi carcerari che ci sono nel nostro sistema penitenziario, esclusa la S2. Quindi abbiamo a Opera questa configurazione che permette in sostanza di stringere delle relazioni anche con situazioni che all'interno sono diverse, che propongono anche delle problematiche sempre specifiche ma differenti tra di loro. Questo carcere è la prima casa di reclusione di Milano, prima che in senso cronologico, e anche uno dei più grandi carceri a livello di dimensioni e quindi di capienza. All'interno appunto ci sono detenuti comuni, ci sono i detenuti della S1 e della S3, quindi dei circuiti di alta sicurezza, ci sono detenuti in 41 vista, e c'è una parte medica che è già stata nominata dal compagno che ha parlato prima di me, che è chiamata centro clinico, che è una singolarità diciamo spesso venuta come eccellenza, ma approfondendo attraverso le lettere che si possono trovare sull'opuscolo di cui abbiamo parlato, potrete tutti vedere come quasi un'eccellenza non si tratta. È una struttura che appunto viene considerata all'avanguardia, ma al suo interno ci sono delle dinamiche estremamente di differenziazione sia rispetto a chi può accedere al centro clinico e chi no. Questo elemento della differenziazione a Opera è molto forte, soprattutto non solo per la presenza di tutti questi regimi carcerari, ma bensì anche tra i detenuti comuni, che vengono divisi geograficamente in due padiglioni, il primo e il secondo padiglione. Nel primo padiglione possiamo dire vengono messi cattivi, nel secondo padiglione vengono messi buoni. Che cosa vuol dire? Nel primo padiglione vengono messi i detenuti comuni, che però si ritiene debbano essere chiusi, quindi le celle sono chiuse, mentre nel secondo padiglione c'è questo sistema di sorveglianza dinamica, ovvero le celle aperte durante il giorno. Ovviamente questo genera una differenziazione profonda all'interno del carcere e finalizzata anche a spezzare la solidarietà tra i detenuti e le eventuali iniziative di lotta o esperienze di rivolta che comunque negli anni non sono mai mancate in questo carcere. Non sono mai mancate e come compagni e compagni che hanno scelto di lottare contro il carcere, contro tutte le carceri, ci siamo sempre sentiti di raccogliere qualsiasi forma di lotta, qualsiasi istanza di rivolta provenisse dall'interno, cercando di mantenere una continuità attraverso la corrispondenza, attraverso la relazione con i familiari, attraverso l'invio costante dell'opuscolo, e cercando di sottolineare il più possibile il rimbalzo tra dentro e fuori, quindi organizzandoci in modo da essere pronti a raccogliere queste iniziative che magari ci vengono, sappiamo che succedono all'interno quando riusciamo a saperlo, in modo da sottolineare questo rimbalzo, questo scambio tra chi sta dentro e chi sta fuori. Da febbraio, in seguito all'invio di questo documento, c'è stata una maggiore attenzione, non che ce ne fosse prima, c'è stata una maggiore attenzione perché abbiamo verificato che dall'interno c'era una volontà fattiva di organizzarsi per potersi chiedere seppur qualcosa di parziale, come appunto il, come il servizio e l'utilizzo dell'ascensore, eccetera, eccetera, ma che ha portato dentro al, all'innesto di relazioni di solidarietà tra i detenuti. Per chiudere, l'invito a, ai compagni e le compagne che ci ascoltano, ma anche a chi ci ascolta da dentro, che spero siano tanti e tante, l'invito è quello di sostenere questi, questi carcerati che nel, che a Opera si stanno, stanno cercando di resistere al, a, ovviamente alla risposta della direzione del carcere, che ha cercato in ogni modo di stroncare queste iniziative di ribellione, di rivolta e di lotta, di sostenerli in primis scrivendo, scrivendo a chi è incarcerato, a chi è in isolamento, e eventualmente ai compagni e alle compagne di sostenere anche con delle iniziative, eventualmente ognuno come, come meglio vuole, come meglio crede, nei, nei vari territori dove appunto purtroppo di carceri ce ne sono tante, quindi eventuali collegamenti sono nuovo, purtroppo facili da, da stabilire. Ultimissima cosa, di nuovo ricordo il presidio che ci sarà a Opera per chiunque volesse partecipare il 14, sabato 14 gennaio a partire dalle 15. Bene, ti ringrazio, rilanciamo poi il tuo appello alla mobilitazione e niente, non c'è molto da aggiungere visto che siete stati molto molto chiari, molto esaustivi rispetto alla situazione di Milano, e quindi io vi saluterei e vi do appuntamento alla prossima occasione. Va bene, ciao a tutti. Ciao, ciao, buona giornata a voi, ciao, grazie. Ciao. Bene, questo era un lungo intervento sulla situazione del carcere di Opera, una situazione grave, però dove abbiamo visto ci sono degli embrioni di organizzazione, comunque c'è un tentativo di difendersi da parte dei detenuti, anche da parte di chi li sostiene dall'esterno rispetto alle violenze perpetrate dall'amministrazione carceraria. E, però la, il programma poi non si conclude qui, ma ci sarà un altro intervento a breve, resteremo sempre in collegamento con Milano, un altro compagno però, e parleremo invece della situazione delle carceri, non delle carceri speciali ma delle sezioni speciali, quindi le sezioni di alta sicurezza che fanno parte del panorama carcerario, appunto sezioni dedicate a detenuti che secondo l'amministrazione carceraria meritano un particolare tipo di controllo e che vivono spesso isolati dal resto, cioè vivono non spesso ma sempre completamente isolati rispetto al resto della popolazione carceraria. E quindi ci ascoltiamo dopo questo, questo lungo intervento un po' di musica, poi torneremo in diretta parlando delle sezioni AS. Yeah. Una suposición, torturar, matar a milico y cuico rico a ver si quieren reconciliación. Son tantos idos, detenidos, desaparecidos, muertos. ¿Cuántos asesinos sin castigo andan sueltos? Olvidar el pasado suena una frase obvia cuando hemos estado viviendo la muerte en carne propia. Si le sacáramos a Chile una radiografía, sabría que hay miles de huesos sueltos todavía. Vía internet me envía la CIA su total molestia. Vía orales mando con napalm y cordial respuesta. Maldito general, darte muerte es poco, igual mataste a la gente, pero no acabaste con el ideal. 11 de septiembre, la memoria por siempre, el día que la historia siente que engendra un monstruo en el vientre. Neoliberalismo listo para dictar tu sentencia, sin recordar, insisto, porque hoy se vive la consecuencia. Al desconcerte y desconcentra, que concertación sea cómplice, con indemnización no se olvida, largo es el índice. Primera página, imagina la bélica milicia y su máquina entrando o eliminando de forma histérica. La memoria histórica de un pueblo obligado, borrado, 17 años de lucha por todos lados, sí. Población combatiente y su frente, terrorismo de estado. Enciende, prende tu mente. Muchos no han vuelto mutilados, torturados. ¿Dónde están? Voy a sacar una toma en la tumba de Jaime Guzmán. En recuerdo de los caídos, detenidos, desaparecidos, huérfanos, viudas, niños en exilio. Reconciliación sería como silenciar lo acontecido. He decidido no darme por vencido, levantar la voz por los que ya no son oídos. Juicio y castigo, maldito enemigo, testigo del tiempo, del estricto rigor, cómplices del sismo, del fascismo. Prenderemos barricada cada 11 de septiembre contra el olvido. El sistema para la paranoia. El sistema seguimos hacia la victoria. El sistema paranoia. El sistema hacia la gloria va. Nuestra historia, la sangre se paga con sangre, no te olvides nunca. Te haré mirar con lupa cuando todo tu rango escupa. Mejor te preocupa, pondré el fusil en tu boca, como lo hiciste con mucho en la población, a manos en la nuca. Primogénito, genio de los que no alcanzaste nunca. Requiem por los muertos en la selva, el tiempo nos educa. Observo en los días presentes, apretar los dientes, como antes con comandantes terratenientes. Nazi, porque tú no vives mal, ¿no es cierto? Como muchos por aquí, acierto en el desierto. A fin de mes del presupuesto, en efecto, no hay reconciliación, parásito de impuestos. Sácate el traje de camuflaje, welcome to la educación del pueblo. Educación que no parece importarte, si te sientes importante. Tus cuentas bancarias no hacen que no seas de carne. Aquí tu plomo es cuento aparte, porque no es pan. El pan que le faltaba a los que sepultaste. Le brinda aplauso al excelente Víctor Jara, porque este compatriota sí que sacó la cara. Esos milicos traidores esperando la orden ahora dispara. Le quebraron los dedos por no dejar de tocar su guitarra. Somos los voceros, somos la reencarnación de aquellos que murieron. Vamos caminando por los mismos senderos, creando conciencia, apoyando a los hermanos sindicalistas. Y ahí estamos, taller, organización, obligada muralista. Escrita hasta la lista de todos los que van. Glass Clan, Funky, Lumpen Cruz, 100% poblacional. La legal, el pueblo lo hace, los barrios, una maldita matanza, salvaje decibel con sed de lucha y no con sed de venganza. El diablo infiltrado por estos lados, para el 73 dejó caer una ayuda monetaria a su amigo Pinochet. Familia maldita, bendecía con agua bendita del cura Fun. La verdad está al frente y no hay solución aún. Sleep, but it can buy a bed. Money can't buy you love, but it can buy sex. You possess money, you'll buy money, yeah, you possess. Money can buy a house, but it can't buy a home. So even with money, you still feel all alone. Money can buy you friends, but it can't buy family. Money can't make you happy, that's just a fallacy. It can buy a bath, but it can't buy purity. It can buy bodyguards, but it can't buy security. While people around the world starve, I eat. Cause money can buy war, but it can't buy peace. Something, everything and anything to get the peace. The society we're living in, it's a necessity. It's got the power to turn your best friends to enemies. It's funny cause money doesn't follow you us to believe. Some sell poison for it, some seek employment for it. We need it to survive, so some clean the toilets for it. I need babes to live, but never will I live for babes. Abolish the queen, I don't wanna see that witch's face. Many sell their soul for it, no, not me. Some will try to tell you that it doesn't grow on trees. I heard the saying said many a time, but they were wrong. Cause if it doesn't tell me, then where did you get the paper from? Most think they'd be happy if they only had more of it. Some waste and some feel more important cause they're born with it. Some have got the nerve to say you're fortunate, but fortunate. The truth is, you don't need a fortune to be fortunate. You don't need to keep it. Then you stole it from somebody else who's hungry. Everything that you do is everything you are. Everything that I am. E allora bene, siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Prima di proseguire, insomma, la trasmissione di Silenzio Assordante con l'ultima corrispondenza di oggi, vogliamo ricordarvi un appuntamento, una cena benefit che si terrà in quel dell'L38 Squat nel quartiere Laurentino 38 al Sesto Ponte, una cena vegan benefit per i compagni e le compagne in carcere in seguito all'operazione Script Amanent, e a seguire disco richiesta, microfono aperto con Nicchia e Paloma, culo e camicia. Quindi siamo a via Giuliotti 8X nel quartiere Laurentino 38 al Sesto Ponte. Ne approfittiamo dunque per salutare i compagni e le compagne che stanno faticando in cucina. Dai, è forte, a dopo. Dijeran verdad, debes saber que cruzarte no es casualidad. Qué ansiedad me da saber de vos. Yo quiero todo, pero no hay registro de la eternidad. El mejor sonido es el de tu voz. No quiero nada, a esta altura es mejor la soledad. Todos tienen su salida. Depreciar la vida es un viaje de ida. Vivir de la movida, ganarse la moneda y levantar a la monada. Te da lo que le falta a tu vida y que te falte no da. Estoy explotando en la fiesta, y si no pensando en vos, en el silencio de la siesta. Te rezo que me gusta, es lo mismo que me molesta. Y por eso estoy en esta, con la gente que te dice, la que se manifiesta. Eso es lo que quiero en cada tema, una propuesta. Prefiero los matices y el color de la protesta. Un rati gatillando en cada barrio de este mundo que apesta. La leyenda de su pecho no dice nada bueno. Su alias es peligro y su bebida es el veneno. Amigo de lo público, enemigo de lo ajeno. Hace mucho ruido, suena como un trueno. Ponete atrás, que voy para adelante. Yo soy la fábrica, vos sos el fabricante. Puños en el aire, ritmo de laburante. Mi trabajo es hacer que transpiren los parlantes. Ponete atrás, que voy para adelante. Ante el racismo de este jefe, la potencia inmigrante. Tu trabajo es hacer lo que dijiste antes. Entre no, pocos sí, muchos no. Lo importante no es la boda, lo que importa es el arroz. No soy yo, ya lo sé, sos vos. Lo importante no es la hora, así que dame tu reloj. Cruzar un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Sabes que sí, sí, porque me decís que no. Otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, sol de mi vida. Si te pudiera cruzar, un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Sabes que sí, porque me decís que no, no. Otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, sol de mi vida. Si te pudiera cruzar, un milagro para mí. Y que se me fundió el corazón. Mean it happy, mean it happy, mean it happy, mean it happy, mean it happy, mean it happy, mean it happy, enter happy, mean it happy, mean it happy, mean it happy, mean it happy, mean it happy. Torniamo in diretta su Silenzio Assordante, una lunga carrellata sul carcere, diverse situazioni abbiamo affrontato precedentemente, parlavamo del regime 14 bis, quindi dell'isolamento che ricevono le persone che all'interno del carcere si ribellano, diciamo, alle condizioni e confliggono con l'autorità. Invece adesso parliamo di un regime, quello della Esseri, che invece è un regime che viene dato alle persone che da subito vengono ritenute, diciamo, particolarmente pericolose, comunque che vanno isolate, categorie che non devono stare a contatto con gli altri detenuti, ma devono subire una carcerazione specifica in reparti isolati, come ci sono in diverse carceri della penisola. Per parlare di questo abbiamo in collegamento un compagno che è stato, fortunatamente per lui, poi ne è uscito, nelle sezioni AS, e quindi sentiamo un po' cosa ci racconta. Intanto sentiamo se è stabilito il collegamento. Pronto? Io ci sono e vi sento. Ciao, buona serata a te. E se ti va appunto di raccontarci cosa sono queste sezioni AS? Beh, allora, la AS, come dicevi, è un regime carcerario, no? Quindi l'ordinamento penitenziario ne prevede quattro, nomento, cioè la bassa sicurezza, la media sicurezza, l'alta sicurezza e poi il 41 bis. E ad ogni regime corrisponde un tipo di trattamento e anche un certo grado di accesso o meno ai benefici previsti, e niente, quindi dalla bassa sicurezza, che sono quelle sezioni più a custodia attenuata, poi la media, che è quella, diciamo, il carcere ordinario, che è quello che interessa la maggior parte dei detenuti, poi invece c'è l'alta sicurezza, che è questo regime che, come dicevi, è più rivolto invece a quei detenuti che, secondo l'amministrazione penitenziaria, meritano un'attenzione particolare. E niente, c'è già da qualche anno, per capire un po' come nasce, cioè, può essere utile anche capire quello che c'era esattamente un attimo prima, cioè che era l'elevato indice di vigilanza, che anche questo era il regime che aveva un po' la stessa funzione, però era un circuito eterogeneo, insomma ci finivano dentro soggetti molto diversi, tutti considerati pericolosi, però c'era chi usciva dal 41 bis perché era stato declassificato, c'erano detenuti che erano considerati pericolosi perché, non so, avevano partecipato a rivolte o particolarmente inclini alle evasioni o particolarmente ostili con le guardie, e poi c'erano compagni, quindi anarchici, comunisti, insomma persone che erano accusate di reati che avevano come finalità il terrorismo o avevano associazioni sovversive e così via, quindi era un bel mischione ed era un po' una contraddizione anche per l'amministrazione penitenziaria, perché praticamente andava a prendere tutti i detenuti pericolosi delle carceri e le chiudeva in sezioni apposta, e quindi risolveva il problema di separare i detenuti considerati più pericolosi dai detenuti invece cosiddetti comuni, però poi di fondo creava delle sezioni dove c'erano dentro persone che, uno, forse era meglio dal loro punto di vista che non si incontrassero tra loro, e poi due, potevano essere un potenziale rischio alla sicurezza dei penitenziari, anche se c'è da dire che nel periodo in cui c'è stata l'elevato indice di vigilanza non è che sono da segnalare grandi momenti di conflitto nelle carceri, quindi in qualche modo ha svolto comunque la sua funzione di deterrenza, però a un certo punto si sono accorti che questa roba non funzionava bene, era anche un po' in contraddizione con quello che è il principio cardine su cui è stato un po' rimodellato tutto il sistema penitenziario negli ultimi decenni, che è quello della divisione per categorie omogenee dei detenuti. E quindi, insomma, avendo valutato che non funzionava più e avendo anche ricevuto tutta una serie di lamentele e di condanne da parte dell'Unione Europea, a un certo punto l'elevato indice di vigilanza finisce e viene ideata questa cosa dell'alta sicurezza. E la differenza principale sta proprio nel fatto che l'alta sicurezza è sì un regime, ma all'interno i detenuti vengono distribuiti su tre circuiti differenti, la S1, la S2 e la S3, dove nella S1 ci finisce chi appunto esce, viene declassificato dal 41 bis che però non viene messo direttamente nelle sezioni comuni per evitare, come dicono i funzionari del Ministero, che possa reclutare tra la popolazione detenuta. In AS2 ci finiscono compagni e quindi persone che hanno associazioni sovversive, reati di questo tipo, quindi finalità politica, ma non solo, anche possono essere associazioni di carattere confessionale, quindi ci sono anche sezioni per gli islamici, quindi il comune denominatore è la finalità di terrorismo, ma come poi vi dirò dopo c'è un'ulteriore poi divisione anche all'interno della stessa S2, e poi la S3 dove invece ci vanno quei detenuti considerati appunto pericolosi perché particolarmente riottosi, oppure anche quelli che hanno, che ne so, il 416 bis, quindi l'associazione mafiosa, però non sono né così importanti da essersi meritati come direbbe il ministero, il 41 bis, ma allo stesso tempo neanche reati così minori da poter finire in sezione comune. Quindi è una zona un po' di limbo. E quindi insomma è così, nell'alta sicurezza c'è questa ulteriore tripartizione interna di circuiti, di sezioni differenti, dove il regime carcerario vigente è lo stesso, non cambia, cioè il trattamento più o meno è simile, o comunque sulla carta è esattamente lo stesso, però il tipo di detenuto che viene chiuso in una sezione piuttosto che in un'altra è differente, e il senso di questa divisione è piuttosto chiaro e palese, anche se uno si va a leggere le circolari ministeriali viene detto molto chiaramente, cioè da una parte bisogna evitare le influenze nocive, quindi la questione diciamo di igiene sociale interna alle sezioni, dall'altra bisogna c'è un ordine di sicurezza, e poi c'è quello dell'osservazione del detenuto, cioè viene proprio scritto, cioè i termini che vengono usati nelle circolari si parla proprio di osservazione scientifica della personalità e del trattamento individualizzante. Che cosa vuol dire? Che se io ho dei detenuti e li accorpo per categorie omogenee, appunto, posso valutare il comportamento del singolo detenuto anche sulla base, misurandolo, paragonandolo ai detenuti che appartengono al suo stesso ambiente, che hanno la stessa storia, che avevano le stesse prospettive, quindi il tipo di osservazione scientifica della personalità che io posso fare è differente che se io, Stato, dovesse andare a valutare il comportamento in un ambiente che è misto, dove le appartenenze sono diverse, le storie personali differenti, anche la base diciamo etica di partenza è differente, quindi è proprio serve a migliorare un'osservazione, una comprensione dei soggetti e degli ambienti in cui si muovono, e anche nel tempo quindi inventare dei trattamenti, che vuol dire sostanzialmente tradotto la distribuzione dei premi, delle punizioni, e quindi tutta la differenziazione premiale, riuscire a misurarla su ambienti specifici e detenuti specifici, quindi rendere più scientifico questo tipo di osservazione. L'ultimo, poi mi fermo, insomma, motivo per cui c'è questa divisione per categoria omogenea all'interno dell'alta sicurezza è il logistico, cioè il fatto di concentrare dei detenuti in sezioni precise, in aree piccole del carcere che sono sorvegliabili anche con dei dispositivi tecnologici ad hoc, che non potrebbero essere utilizzati, impiegati su tutto il carcere, su grandi aree, ma nel momento in cui io concentro questi detenuti in spazi più piccoli posso anche poi attirare fondi, perché poi c'è anche una questione economica, che mi permettono di investire nella sorveglianza tecnologica. Questo, cioè, non lo dico io, non è una paranoia mia, ma è proprio quello che scrive direttamente il DAP nel giustificare il perché di questo tipo di sezioni e di questa differenziazione anche dei circuiti interni all'interno di uno stesso regime carcerario. Non so se sono stato chiaro, interrompetemi. Certo, no, sei stato chiarissimo. Sei stato chiarissimo. A caso. È un carcere dentro il carcere, nel senso che non si tratta di carceri speciali, ma si tratta di sezioni che sono ospitate all'interno dei carceri comuni, tantissime carceri, anche qui ad esempio a Roma, a Rebibbia, in cui però i detenuti non entrano mai in contatto con il resto del corpo detenuto, quindi vivono di fatto all'interno dello stesso carcere, ma come dei fantasmi non incrociano mai la vita degli altri detenuti. Addirittura le misure di sicurezza a volte prevedono che se un detenuto in AS dovesse circolare in un corridoio deve essere sgombrato dai detenuti comuni, in modo che neppure lo possano vedere. A proposito di questo, non so se tu sei poi in grado di fare un confronto tra la vita di un detenuto, diciamo cosiddetto comune, e quello in uno in AS, però perlomeno se ti va poi di raccontare raccontarci la sensazione di chi vive come te, che ha vissuto in un regime AS, che tipo poi di detenzione in particolare cioè nella quotidianità si subisce, come si percepisce questo stato di appunto sicurezza speciale da cui si è sottoposti? Ma guarda, nel concreto poi quello che cambia dal punto di vista del trattamento, ci sono delle cose proprio specifiche, ad esempio hai meno colloqui, cioè hai 4 ore di colloqui anziché 6, hai 2 telefonate al mese anziché una settimana, sulle ore d'aria di socialità lì bisogna capire, perché poi ogni carcere fa un po' a sé, quindi non so cosa preveda proprio sulla carta il regolamento, però poi anche lì facile che ci sono un po' di che le cose cambiano. E poi come dicevi, sei in una sezione che è isolata da tutti gli altri detenuti e quindi anche isolata dalle attività interne al carcere, non che siano molte poi queste attività, però quel poco che c'è, diciamo, di certo tu non ci puoi partecipare. Le sezioni sono molto piccole, più sorvegliate anche banalmente nel rapporto numerico tra secondini detenuti, cioè fa molto effetto la cosa che dicevi del fatto che non puoi incontrare altri detenuti. Cioè io ricordo proprio i primi tempi di alta sicurezza, il fatto che quando ti spostassero per andare a colloqui vedi che proprio chiudono il corridoio, se ci sono detenuti li rimettono in cella, cioè che si crea proprio quel clima dove sta passando chissà chi. Io proprio per 6 mesi credo di non aver incontrato altri detenuti che non fossero proprio della mia stessa sezione, ma proprio neanche incontrati per sbaglio in corridoio. Poi chiaramente col tempo, come sempre, si allentano anche i controlli, allora poi capita che incroci qualcuno, però effettivamente viene applicata questa cosa e fa un certo effetto, anche perché c'è uno degli aspetti più comuni del carcere normale, che c'è un sacco di gente, fin troppo, hai sezioni in cui ci sono 30, 40, 50 persone che poi vedi all'aria, vedi in corridoio, puoi andare a fare socialità nella cella di uno, di quell'altro, cioè delle volte, delle volte, credo che uno dei problemi sia quello di un eccesso di socialità, che non puoi mai stare solo, sei sempre in mezzo alla gente, che è un problema, è anche faticoso. L'alta sicurezza invece è esattamente il contrario, sei sempre solo, cioè se la maggior parte del tempo sei da solo. Per dare un'idea, in buona parte del periodo che io sono stato in alta sicurezza, eravamo in massimo siamo stati in 6 e l'ultimo periodo addirittura eravamo in 4 in tutta la sezione, ognuno con la sua cella. Ci sono celle in cui, cioè in sezioni normali dove sei in 4 o 5 nella stessa identica cella, quindi cioè, pensa anche solo alla disposizione dei corpi, da 4-5 persone che sono radunate in una cella, quindi sono raccolte lì, passano un sacco di tempo insieme con tutti i pro e contro di questa cosa, invece tu quelle persone le distribuisci ognuna per cella, con celle che affacciano su un corridoio, quindi celle adiacenti tra loro, affacciate su un corridoio che danno poi sulla metà del corridoio vuota, perché ogni cella è dalla stessa parte, quindi tu davanti dal cancello della tua cella non puoi vedere nessuno, anche gli altri che hai in sezione sono nelle celle accanto, quindi proprio c'è una così lungo un corridoio affacciato sul niente, tempo tu lo passi con quelle quattro, cioè o da solo oppure all'aria con quelle 4-5 persone. Secondo me è la cosa più importante da capire di qual è la differenza, perché cioè tu immagini le tensioni che si possono anche accumulare nel parlare sempre con quelle persone. Io poi ho avuto una bella esperienza, nel senso che c'era un bel affiatamento anche tra quei 4-5, però sei sempre solo in 4-5, non è come essere una sezione di 30 persone che litighi con uno e fai l'aria con l'altro e ti vedi a socialità. Oppure una roba che a me ha colpito molto il cenare insieme. Cioè il periodo precedente ero alle Vallette, non ero in una sezione di alta sicurezza ma neanche tra i comuni, ero un po' una via di mezzo in attesa di essere spostati, e con i miei vicini di cella si cenava insieme, e cenare insieme vuol dire che si cantava, che si, insomma, erano proprio dei momenti belli della giornata, proprio di grande socialità. Nella sezione di alta sicurezza invece, dove stavo io, poi non è sempre così, ma non si poteva cenare insieme perché la socialità la si faceva in un'area, in una stanza apposita o nel corridoio, ma con le celle chiuse, quindi non esisteva invitare uno a cena. Quindi c'è una grande comodità anche per, tu mi chiedevi un po' le differenze, cioè si è molto più comodi, hai una cella tutta per te, che vuol dire che puoi spegnere la televisione quando ti pare, la puoi accendere quando ti pare, la puoi spaccare e non usarla mai, puoi leggere, puoi studiare, cosa che in una sezione comune, in una cella con tanta gente, fai fatica a fare. Però il prezzo di questa comodità è un isolamento comunque feroce che nel tempo lascia anche il suo segno in qualche modo, comunque è un po' la funzione di quella sezione lì, di lavorare proprio sul tuo isolamento. Poi cos'altro dire? Cioè, da un punto di vista più di un compagno, o quantomeno del mio, anche stare in un mondo chiuso, proprio solo tra compagni, un po' un acquario dove non incontri nessun altro, è stato un limite, no? Però allo stesso tempo in una sezione di alta sicurezza hai a che fare con i tuoi compagni di sezione, spesso sono persone che hanno una fibra etica differente, non è essere buttati in una sezione dove c'è tanta disperazione, c'è sopravvivenza, è un bel casino uguale, quindi farei anche fatica proprio a dire, secondo me è sbagliato approcciare all'alta sicurezza pensando cioè meglio o peggio di stare altrove, questi sono un po' i suoi elementi di differenza, anche sui rapporti di forza mi viene da dire, ad esempio essendo così pochi puoi fare poco, quindi in questo svolge bene la sua funzione, poi qualcosa lo puoi fare sempre, c'è stato il caso anche recentemente di Alfredo Ferrara che ha spaccato delle cose, piuttosto che ci sono state in passato anche battiture, non è che sei totalmente impossibilitato, però è diverso, quando sei in 30, 40, 50, ti rifiuti di tornare dall'aria, cioè hai delle possibilità proprio in mano anche nel sforzare dei rapporti di forza all'interno del carcere che sono un po' differenti che non nello stare in una sezione del genere. Insomma, non so, così un po' a random, se ti viene in mente qualcosa di particolare che vi interessa. No, io direi che sei stato molto molto chiaro nello spiegare il funzionamento di queste sezioni, di questa parte del mondo carcerario, e quindi lascerei a te la parola se vuoi concludere. Oppure salutarci, come preferisci. No, dico concludere, se hai da aggiungere, oppure ci possiamo salutare qui. No, io non ho granché da aggiungere, insomma, se poi possiamo anche pensare di in futuro di scendere un po' più nel particolare, di cose ce ne sarebbero da dire, ci sarebbe anche da rifletterci un po' su, insomma. Ecco, forse l'unica cosa che mi viene in mente, che ho scordato di dire prima, è che in questa divisione a cui facevo riferimento per categorie omogenee ce n'è una ulteriore, cioè se in AS2 ci stanno, per così dire, i politici o gli islamici in tempi recenti, però poi anche all'interno si è diviso ulteriormente, cioè il DAP tende a tenere gli anarchici con gli anarchici, i comunisti con i comunisti e così via. Adesso di sezioni attive, se non ricordo male, se non sbaglio, ce n'è 4 maschili e 2 femminili di S2, ci sono al momento dentro diversi sia compagni che compagne, sono due compagne sono a Latina, mi pare, ci sono compagni sparsi un po' tra Ferrara, Alessandria, Siano, Terni, insomma, quindi bisogna continuare comunque a tenere alta l'attenzione anche rispetto a questi compagni che sono in questo tipo di sezioni, scriverli, cioè l'isolamento c'è, ma si può rompere in mille maniere, lo sapete bene voi che ne parlate continuamente a radio, quindi l'unico saluto che mi sento di fare è quello anche di incoraggiare queste forme che possono sembrare stupide, banali da poco, però invece possono fare la differenza anche quando si è in carcere, insomma, e c'è tanto tempo da riempire. Bene, ti ringrazio per il contributo, ti saluto, eventualmente insomma ci rimandiamo a eventuale prossimo approfondimento. Un abbraccio. Bene, dai, un abbraccio a tutti. Ciao, due. Ciao, grazie. A tutti quanti. Ciao. Bene, abbiamo fatto insomma una carrellata abbastanza vasta sul mondo carcerario, toccando diversi aspetti. Ovviamente ce ne sarebbero tantissimi altri, dai suicidi in carcere alla questione dell'isolamento 14 bis alle sezioni di alta sicurezza. Sono alcuni degli aspetti poi della vita carceraria. La settimana prossima poi ne tratteremo di altri, in particolare cercheremo di approfondire l'aspetto del 41 bis, tra cui tra l'altro il presidio a Rebibbia è collegato proprio anche alla questione del 41 bis e alla questione dei libri che non riescono ad accedere nelle sezioni. Ci ascoltiamo un po' di musica, poi andiamo a concludere. Allora, 17:25 minuti primi, ci avviciniamo a lasciare il mixer e i microfoni a Down in the Desert, e appunto ricordiamo a chi ci ha ascoltato che Silenzio Assordante andrà in onda anche il prossimo venerdì, il venerdì che precede tra l'altro il presidio che si terrà davanti le mura di Rebibbia il 31 dicembre dalle ore 10 del mattino. C'è uno spottino che insomma ricorre qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa, che sicuramente avrete già ascoltato. Vi ricordo comunque gli appuntamenti, perché dalle ore 10 c'è questo presidio sonoro con appuntamento a via Raffaele Maglietti, angolo via Bartolo Longo. Lì proprio ci sarà il banchetto di Radio Onda Rossa, dove troverete anche le scarceranda, le agende anticarcerarie autoprodotte dalla radio, agenda che, come sapete, potete anche indicare a chi volete inviarla in carcere, e la radio insomma provvede all'invio gratuito. A seguire dalle 13 ci sarà una lenticchiata propiziatoria, proprio perché il presidio parte dall'angolo di via Raffaele Maglietti, via Bartolo Longo, si dirige verso il femminile, lì prosegue con un saluto sonoro e alcuni messaggi di solidarietà rivolti alle donne recluse, e poi si ritorna dal punto di partenza per muoversi verso la sezione maschile. Quindi insomma una mattinata in solidarietà con le persone imprigionate. Proprio di questo appuntamento andremo sicuramente a parlare anche la prossima settimana, perché entreremo un po' più nel merito sia della situazione all'interno del carcere di Rebibbia, sia per quanto riguarda il blocco dei libri, stampe e riviste in 41 bis, e poi vi andremo a parlare di altre situazioni di lotta fuori e dentro le carceri sparse per tutta Italia. Che certo. Dici? Che la prossima settimana parleremo anche di ectoplasmi e fantasmi, visto che sicuramente, non so se poi gli ascoltatori lo sanno, ma c'è la presenza di un fantasma all'interno dello studio di Radio Onda Rossa che ogni venerdì pomeriggio durante la nostra trasmissione fa saltare tutti gli impianti e ci troviamo sempre un po' così malmessi. Oggi alle 17:16 minuti prima salta tutto, esplode qualcosa e tra l'altro non sapendo da dove proviene la musica noi adesso lasciamo il mixer al compagno dagli che scantinati qui di Via dei Volsci la musica proviene di un modello fantasma dell'opera, c'è qualcuno che suona, non siamo noi però, quindi. E allora bene, un po' di simpatia per una puntata che è stata anche piuttosto pesante. Alla prossima settimana con Silenzio Assordante.